Siamo con Gaia Parrini, una delle curatrici della settima edizione di Caravan, la festa del cinema itinerante a Roma, al quartiere di Tor Pignattara e anche al Pigneto dal 20 al 24 giugno. Gaia, ben trovata. Buongiorno, ben trovato, ben trovati a tutti. Lo raccontiamo per chi non lo conoscesse. Caravan è una rassegna di cinema dedicata, insomma, alla cinematografia migrante, nata per Pignattara ormai nel 2011, quindi sono diversi anni che siamo nel quartiere portando, diciamo, con uno spirito un po' più leggero, ecco, parliamo di tematiche importanti legate alla migrazione, non solo, raccontiamo comunità altre che vivono questo quartiere, che è, insomma, un quartiere molto, molto, molto particolare di Roma, a grande presenza, insomma, di comunità straniere, ecco. Sì. Allora, saranno 5 giorni, come saranno organizzati? Allora, sono cinque location sparse tra Tor Pignattara e il Pigneto. Iniziamo proprio nella giornata mondiale del rifugiato, quindi a Casa Scalabrini e via Casilina, e appunto siamo contenti di iniziare proprio lì, che insomma è un ex seminario dei padri scalabriniani nel 2015 si è trasformato in un centro che ospita circa 30 rifugiati, e ci è sembrato, insomma, importante iniziare proprio da questo luogo, con un film peraltro del maestro Aki Kaurismäki. E poi continueremo con le proiezioni. Giovedì saremo in una casa privata, a casa di Bianca e Piero, via Tor Pignattara, con un film cinese molto molto particolare che vi consiglio veramente di vedere. Venerdì saremo al CEMEA, che è la Casa delle Arti del Gioco, e in via Policastro, con un film turco-tedesco. Sabato invece saremo alla Biblioteca del Pigneto con, se posso dirlo, il mio film preferito, Newton, un film indiano veramente molto molto forte. E concluderemo domenica con un film algerino alla Scuola Internazionale Carlo Pitacane. Tutte le sere inizieranno alle 19 con un aperitivo, chiacchiere, musica, incontri, e poi le proiezioni vere e proprie si svolgeranno proprio alle 21, quando, insomma, sul far della sera sarà possibile quindi vedere i film all'aperto in questi spazi, appunto, di cui vi ho parlato. Una curiosità: è previsto anche un momento di incontro dopo la proiezione per parlarne tutti insieme? Assolutamente sì, prima del film tutte le sere ci sarà una presentazione, quindi abbiamo scelto per ogni sera un ospite che in qualche modo ci farà entrare nel paese presentato dal film. E poi l'idea di Caravan è molto conviviale, è un cinema fatto nel quartiere con il quartiere, quindi ci saranno momenti di discussione sia, diciamo, più liberi dopo le proiezioni, ma anche prima degli incontri, delle visioni stesse, appunto delle produzioni più guidate, ecco. Perfetto. Ci dai tutti i riferimenti web per saperne di più? Assolutamente. Allora, chiaramente abbiamo la nostra pagina Facebook, Caravan Fest, e c'è il sito internet caravanfest.it, Instagram, e basta. Benissimo, benissimo. Allora, ricordiamo l'appuntamento con la settima edizione di Caravan, la festa del cinema itinerante a Roma, Tor Pignattara e Pigneto dal 20 al 24 giugno. Un saluto e un ringraziamento a Gaia Parrini, che è una delle curatrici. Gaia, un abbraccio, un in bocca al lupo e alla prossima. Crepi, grazie, a presto. Ciao.